Radio 24 Reportage. Caos Cannabis. Cosa accade davvero nella giungla tra sentenze e leggi? Di Livia Zancaner. Fine gennaio a Taranto il GIP, su richiesta della procura, archivia la maxi inchiesta Affari in Fumo, in cui erano coinvolte 56 persone per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2018 era stata sequestrata in una cinquantina di negozi oltre una tonnellata di infiorescenze di canapa sativa e migliaia di prodotti. Vendere derivati dalla canapa light è illegale, ma chi lo ha fatto non è punibile, vista la confusione causata da una stratificazione di leggi, circolari, sentenze di merito e legittimità, scrivono i PM. La maggior parte dei prodotti sequestrati è stata però distrutta, ci spiega il legale di uno dei coltivatori, Carlo Alberto Zaina. La procura ha archiviato, ha chiesto l'archiviazione e il GIP l'ha concessa, sul presupposto che tutti gli indagati non erano consapevoli e non volevano comunque commerciare sostanze stupefacenti. In buona sostanza si fa un ragionamento che anche offensivo. Poveretti, voi non ne capivate tanto, eravate in buona fede, ma non è così, non sono in buona fede, coltivano o commerciano cose e sostanze che non sono stupefacenti, questo è cosa molto diversa. Ad Ancona, sempre nel 2018, la squadra mobile di Macerata sequestra in un negozio 13 kg di cannabis light tra piante e prodotti confezionati per la vendita. Il titolare 28enne Lorenzo Castignani e il 52enne siciliano Alfonso Nicosia vengono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 30 maggio 2019 intervengono le sezioni unite della Cassazione che con l'ormai famosa sentenza definiscono illecita la commercializzazione di foglie, infiorescenze, oli e resina derivati dalla coltivazione della cannabis light con efficacia drogante. Il 15 ottobre la procura chiede la condanna a 4 anni. L'11 dicembre il GUP Paola Moscaroli, in sede di udienza preliminare con rito abbreviato, le assolve perché il fatto non costituisce reato, ma dispone la confisca di alcuni prodotti rimasti sotto sequestro. In una carenza totale di una normativa precisa, bisogna affidarsi agli scienziati, sottolinea sempre Zaina, che difende Castignani. Il problema in questo momento, in una carenza totale di una normativa precisa e nella situazione di dover interpretare il pensiero delle sezioni unite che è tutt'altro che lineare, è devoluto alle rilevazioni scientifiche. Io ho sempre detto che i giuristi e comunque gli operatori del diritto in questa situazione devono fare un passo indietro e devono cedere appunto il passo agli scienziati. Gli scienziati e i tossicologi in modo particolare cosa hanno detto? Esiste una soglia oltre la quale la sostanza è da ritenersi stupefacente, cioè una soglia di THC, di delta 9 tetraidrocannabinolo. Sotto quella soglia la sostanza non è stupefacente. Il nodo è la soglia oltre la quale scatta l'efficacia drogante. Il limite a cui si riferisce l'avvocato è lo 0,5% previsto dalla 242 del 2016 per la coltivazione di piante di canapa. La legge consente infatti per la produzione di fibre e altri prodotti una percentuale di THC compresa tra lo 0,2 e lo 0,6%. In merito alla commercializzazione, ricordiamo, il testo unico sugli stupefacenti del 1990 punisce chi vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia le sostanze stupefacenti o psicotrope. Ci sono cose che non capisco e a cui nessuno dà la minima importanza. E quando faccio una domanda mi rispondono cosa si dice. Siamo in balia delle interpretazioni di giudici, forze dell'ordine, politici, dicono da mesi gli operatori del settore, ma per Donata Favretto, presidente nazionale gruppo tossicologi forensi italiani e professore associato all'Università di Padova, la normativa è chiara e in ogni caso la percentuale di THC va applicata alla quantità. L'efficacia drogante si deve dedurre dal contenuto assoluto di tetraidrocannabinolo e non solo dalla percentuale, perché la percentuale ci aiuta proprio a calcolare la quantità di principio attivo. Se 2 grammi di cannabis allo 0,5% di principio attivo contengono 10 mg di THC, Quindi se uno utilizza questi 2 grammi di questa cannabis a basso contenuto, 0,5%, assume comunque 10 mg e con 10 mg di principio attivo ci sono già gli effetti psicotropi, disabilitanti, transienti, cioè non dureranno a lungo, però ci sono. In Italia c'è ancora il caos. Cosa si dovrebbe fare per finalmente regolamentare il settore? In realtà il caos c'è, per chi non vuole rispettare la normativa è chiara, la sentenza della Cassazione a sezioni riunite ha ribadito che gli unici usi di questa cannabis a concentrazione inferiore allo 0,6% sono gli usi agricoli, industriali, cosmetici e quant'altro, ma non l'uso personale, questo è chiaro, quindi non deve esserci caos su questo. La legge 242 del dicembre 2016 permette soltanto alcuni usi e questo fra l'altro anche in accordo con la Convenzione internazionale sugli stupefacenti di New York del 1961, alla quale l'Italia deve sottostare perché l'ha firmata, e la coltivazione della pianta di cannabis può essere fatta soltanto a scopi esclusivamente industriali o di orticoltura, e quindi bisogna impedire l'utilizzazione non consentita delle foglie della pianta di cannabis o il loro traffico illecito. L'utilizzo ad uso personale attraverso questi shop di questa sostanza, soprattutto in persone come adolescenti che hanno ancora il sistema nervoso centrale in fase di sviluppo, gli effetti sono veramente devastanti sui giovani in crescita. Per i tossicologi forensi non esiste un uso ricreazionale delle sostanze, né si può fare distinzione fra droga cosiddetta leggera e pesante. A Macerata da mesi è in corso una battaglia contro la cannabis light. Tutti i negozi sono stati chiusi, così il questore Antonio Pignataro. Occorre una norma da parte del legislatore che vieta assolutamente l'uso di queste sostanze, la vendita di queste sostanze in qualsiasi parte d'Italia, in modo tale da rendere la normativa chiara, esaustiva ed evitare che i nostri ragazzi vengano avvelenati da questa sostanza, e quindi rispettare quello che dichiara espressamente la comunità scientifica con il suo organo principale che è il Consiglio Superiore di Sanità. Sul fronte politico, dopo la bocciatura per inammissibilità dell'emendamento in legge di bilancio e il nulla di fatto nel mille proroghe, alcuni deputati ci riprovano con una legge ad hoc. L'obiettivo è consentire la coltivazione e la commercializzazione di prodotti con THC inferiore allo 0,5% per qualsiasi uso derivanti da infiorescenze fresche, ed essiccate e oli, ci spiega Riccardo Maggi, primo firmatario. La proposta di legge che noi abbiamo depositato e raccolto già più di 20 firme, diciamo, trasversali tra i vari partiti di maggioranza, prevede di chiarire definitivamente che è legale la produzione e la commercializzazione di questi prodotti, quindi dare una certezza a questo settore. Un'integrazione proprio a quella 242 del 2016 che aveva normato, diciamo, tutta la filiera della canapa industriale, e chiarisce che il testo unico sulle droghe quindi non interviene rispetto a questi tipi di prodotti. Quindi il punto è sollecitare una volontà politica per fare in modo che ci sia una discussione rapida di questa legge. Secondo Eurispes, dall'entrata in vigore della legge 242, nel gennaio 2007 le superfici coltivate a canapa in Italia sono passate da 950 a quasi 4.000 ettari in un triennio. Sono nate 800 partite IVA agricole specializzate, 1.500 nuove aziende e 1.000 negozi per un settore che nel 2018 contava 10.000 addetti e un fatturato di 150 milioni di euro, si legge nel rapporto Italia 2020. Per questo, come peraltro auspica la stessa Cassazione, l'unica soluzione è chiedere chiarezza al legislatore. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.